Salve a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con Pillole di consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca dell'Associazione Culturale Energicamente che opera su Firenze e su Roma occupandosi di tecniche di riequilibrio energetico come Reiki, riflessologia plantare, fiori di Bach e counseling. Oggi continuiamo a parlare di Reiki e delle sue applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni. In special modo oggi andremo ad analizzare alcuni studi condotti sull'efficacia dei trattamenti Reiki nella terapia contro le cefalee. Come abbiamo visto nelle puntate scorse, Reiki è un antico e semplice metodo di riequilibrio energetico che si opera tramite il tocco delle mani. Si tratta di una tecnica dolce, di rilassamento ed analgesica, efficace nella terapia del dolore di qualunque tipo, sia esso operatorio, reumatico, vascolare o oncologico. Si applica nell'assistenza pre- e post-operatoria, durante i trattamenti chemio o radioterapici, nel malato oncologico avanzato e in stato terminale, negli stati di stress e nella depressione. Reiki viene classificato dal National Center for Complementary and Alternative Medicine come una terapia bioenergetica facente parte della Biophile Medicine. In questo specifico contesto ideologico, quindi, Reiki si pone nell'ambito della medicina delle energie sottili, che ha la possibilità non solo di curare o comunque sia di trattare la malattia a livello fisico, ma anche di agire sugli elementi psicoenergetici della personalità dell'individuo trattato, promuovendone la reintegrazione ed il riallineamento del complesso corpo, mente e spirito. Come tecnica di contatto manuale, Reiki si può collocare tra le più efficaci tecniche di distensione e rilassamento. Durante la seduta Reiki, infatti, si ottiene un rilassamento profondo con riduzione dell'ansia, della pressione arteriosa sistolica e della tensione dei muscoli del collo, nonché l'aumento delle IGA salivari. Tutto questo ha ovviamente risvolti positivi anche sulla salute perché, come ci insegna la medicina tradizionale cinese, non esiste benessere del corpo senza un benessere generale che coinvolga anche la mente, le emozioni e l'anima. Per quanto riguarda poi, più specificatamente, la salute del corpo, Reiki è un tipo di trattamento che può essere usato anche parallelamente alla medicina ufficiale, per alleviare alcuni disturbi. E proprio l'emicrania è uno dei problemi per i quali l'utilizzo del Reiki si è rivelato più efficace. A dimostrarlo, una sperimentazione avvenuta qualche tempo fa all'ospedale San Carlo Borromeo di Milano, nell'ambulatorio di medicina psicosomatica del reparto di medicina interna. I risultati sono stati più che soddisfacenti, con un dimezzamento degli attacchi del mal di testa ed una riduzione del dolore. L'ambulatorio, nello specifico, faceva parte del reparto di medicina interna e offriva, oltre al Reiki, diversi trattamenti alternativi alla medicina tradizionale, come l'ipnosi e anche l'omeopatia. Questo sia per la cura di persone esterne, sia di ricoverati nel reparto di medicina e, ovviamente, sempre in associazione alle cure farmacologiche. Perché lo studio del quale stiamo parlando è stato condotto sull'emicrania? Beh, perché l'emicrania è espressione di uno stato di stress. Colpisce normalmente persone che si affidano molto alla sfera mentale, che affrontano tutto da un punto di vista razionale e che non riescono, in condizioni di stress, a scaricare a sufficienza le proprie emozioni. Questo provoca ovviamente un accumulo di tensione e di energia non espressa che, attraverso meccanismi nervosi e biologici ben conosciuti dalla medicina, si manifesta anche attraverso il mal di testa. In questo senso, l'emicrania è un disturbo psicosomatico che esprime, cioè a livello fisico, con dolore tangibile e talvolta decisamente invalidante, uno squilibrio che riguarda la sfera delle emozioni. Il Reiki funziona perché è un trattamento che permette, attraverso il contatto con l'operatore, di riportare l'energia fisica ed emotiva in equilibrio. E l'operatore Reiki, in tutto questo, funge semplicemente da canale tra l'energia universale e quella individuale. Per il Reiki, quindi, l'emicrania non è un problema a sé stante, il dolore è espressione di un disagio, di uno squilibrio energetico. Lo scopo dello studio condotto presso l'ospedale San Carlo Borromeo di Milano era verificare se il Reiki, in supporto alla terapia farmacologica convenzionale, fosse in grado innanzitutto di ridurre la frequenza degli attacchi di emicrania, la loro intensità e la durata del dolore e migliorare anche la qualità di vita del soggetto soffrente di emicrania, ma anche e soprattutto di ridurre il numero di giornate lavorative perse dallo stesso soggetto trattato e di ricorso a prestazioni sanitarie. Ciascuna persona è stata sottoposta ad un ciclo di 8 trattamenti completi di Reiki, con frequenza settimanale. Lo stato di salute di tutte le persone è stato monitorato durante e dopo il ciclo di trattamenti e i risultati sono stati i seguenti. Abbiamo avuto riduzione del 50% degli attacchi di emicrania, da una media di 10 attacchi al mese a 5, e degli stati di depressione spesso associati a questo disturbo. Si è verificata anche una riduzione del dolore durante gli attacchi, da dolore intenso e invalidante a dolore lieve moderato. E una riduzione molto drastica del consumo di farmaci per lenire il dolore. La ricerca si è concentrata sull'emicrania perché si trattava di un disturbo facile da isolare, catalogare e controllare proprio da un punto di vista clinico. Ciò ha permesso quindi di rispettare tutti i parametri richiesti per uno studio scientifico, cosa assolutamente non facile quando si tratta di trattamenti di medicina alternativa come quelli effettuati attraverso i Reiki. Allo stato attuale, il San Carlo Borromeo di Milano non è l'unico ospedale italiano in cui si pratica il Reiki, ma è stata finora l'unica struttura pubblica a offrirlo come trattamento di cura o comunque sia di trattamento alternativo secondo i prezzi del Servizio Sanitario Nazionale, quindi del tariffario offerto dal Servizio Sanitario Nazionale. Per oggi è tutto, e nel ringraziare nuovamente Radio Big World per l'ospitalità concessaci, vi invito a visitare il sito di Energicamente al www.energica-mente.it oppure la nostra pagina Facebook Energicamente Competenze per il Benessere o a contattare direttamente noi operatori ai seguenti numeri 329-8989-669 per parlare con Franco, al numero 339-3860-120 per parlare con Elisa o al numero 340-2345-340 per parlare con me che sono Francesca. A risentirci alla prossima puntata.